ci metto circa poco più di un attimo. Respiro denso, viaggio poco più di un battito. Spero questi che si accorgano e mi alzino. Non resisto in questa gabbia di frustrati, no. Voglio cambiare modo, cambiare mondo, cambiare il moto. In questo buio non ti trovo, io non mi ritrovo. E tu che cazzo c'è da ridere? Mi conosci ciò che voglio, sai che è possibile. Mentre scuoti quei capelli lunghi, la mia testa sai che perde punti. Scrivo sai ma non voglio che ti disturbi. Aspetto ancora la notte che ti distruggi. E non sto a dirti quanto è bella questa musica. Non capiresti ma io non mi aspetto questo. Di certo di getto la vivo, la scrivo. Se rido la schivo, per primo convivo con me stesso fino all'arrivo. La tua immagine io la stringo nel palmo. Non dirmi di stare calmo questa notte. Se non canto cadranno le porte. Avrei voluto da sempre nascere con te. Adesso mi basta stare in silenzio con te. Non parlo chiaro, già lo so, non capiresti. Come il 90% di questi testi. Non sono un rapper né quello che penseresti. Se scrivo ciò solo per placare i miei intenti. E sono tutti artisti adesso. Io sono uguale allora ai vostri occhi. Ma se che cazzo me ne frega di sta roba. Sono in preda dentro, ne sento rintocchi. Calma, mi serve più calma. Ho fumato la tua chance ancora prima di rollarla. Potrei fare come tutti e parlarti di ganja. Senza dirti che hai soldi per la roba. Però me li hai alzati mamma. Così andrebbe meglio, dimmi. Dovrei fingere come i vostri artisti. Allora sai che ti dico. Tenete gli applausi per gli altri. Perché voglio solo fischi. Voglio solo fischi. Voglio solo fischi. Allora sai che ti dico. Tenete gli applausi per gli altri. Perché voglio solo fischi.